Un saluto da Max Macchia, 451 Frammenti Sonori, che ritorna, come detto da Salvatore Titolo, che saluto tra l'altro, appunto con quella costanza nel senso di nome, no? non di fatto, ecco. Oppure di nome di fatto. Comunque, a parte gli scherzi, è tornato qua appunto sulle onde di Radio Città Fujiko per altre avventure e anche disavventure musicali, visto che questa sera appunto quando ascoltate insomma il 451 in questione, beh, vi troverete e vi trovate, per chi ascolta in diretta, un suono che non è di certo insomma grazioso, aggraziato, anzi tutt'altro, visto che tratteremo di nuovo il noise questa sera con particolare insomma così attenzione sia in questa ora che nella seconda ora rispetto a personaggi che hanno lavorato con il noise in maniera particolarmente creativa, non che gli altri insomma che abbiamo inserito nelle scorse trasmissioni non l'abbiano fatto, ma questi insomma hanno fatto del noise un vero e proprio strumento linguistico eccezionale. Quindi insomma passeremo in rassegna ovviamente Masami Akita, ovviamente William Bennett, magari nomi così che potrebbero non dirvi nulla, e poi magari come progetti invece vi possono e magari vi dicono insomma anche molto. Per iniziare, anche qua nome tutelare di un certo modo di intendere il noise, potremmo dire anche delle sorte di globalisti del noise, sia per diffusione appunto nel mondo appunto questa peculiarità compositiva, potremmo dire, ma anche globalità nel senso di totalità, anche forse prendendo quello che è il rumore bianco, quello forse più famoso, insomma, quindi la totalità e la globalità delle frequenze, quindi facendo una sorta insomma di giro completo, di cerchio tondo, ecco, quasi perfetto, potremmo dire, nell'imperfezione appunto del noise, dell'utilizzo appunto di frequenze che spesso insomma vanno per fatti loro, o perlomeno insomma poi anche questo il gioco che fanno molti è quello di dare l'impressione che il rumore vada per fatti propri. Justin Brodkin probabilmente è uno anche dei maggiori chitarristi che sa utilizzare appunto il noise in una chiave appunto che viene da dire immediatamente si fa subito post rock, ma anche di rock estremo, tantamente estremo appunto da uscire da quello che insomma la genericità anche dello stesso termine insomma rock, a meno che non si intende insomma rock classico. Quindi troviamo Justin Broderick sia in Napalm Death, sia in Final, in Godflesh, in Aid of David, in compagnia addirittura della produzione di Steve Albini, Ice, Jesus, e poi fantastici insomma come non citarli, Techno Animal, che hanno fatto appunto anche dell'elettronica noise un viatico e le portati verso collaborazioni e anche linguaggi che andavano dentro l'hip hop, dentro va da sé insomma certa industrial, a certo isolazionismo. È veramente eccezionale la parabola insomma noise di Justin Broderick, e ce l'andiamo appunto ad ascoltare con un pezzo che tra l'altro da proprio in esclusiva alla Sub Rosa, Sub Rosa, anzi, perdonate, insomma, sempre in questo inglese che subentra anche quando non dovrebbe, appunto, Sub Rosa in latino. Pezzo che dà appunto alla storica etichetta belga, che ha fatto un lavoro veramente encomiabile, e abbiamo dedicato anche delle trasmissioni alle antologie, Anthology of Noise and Electronic Music, dove tra l'altro appunto c'è veramente una capacità di spaziare dal rumorismo futurista di Majakovskij fino ad arrivare al rumorismo glitch di qualche anno fa, e poi intravedere insomma anche linee future di drone noise e quant'altro insomma si possa immaginare dentro il noise, cosa anche che abbiamo insomma parzialmente, ed è giusto che sia così, insomma trattato anche nelle scorse trasmissioni dei 451 frammenti sonori, parziale perché insomma la globalità in questo senso, beh, ce la può dare soltanto come dire un'idea così vaga, appunto frammentaria, di quello che è un discorso molto complesso e che soprattutto insomma è ancora veramente tante possibilità, tante frecce proprio nel proprio arco per colpire vari obiettivi che non sono magari quelli immediati, ma magari appunto sono legati a forme di sperimentazione musicali che non sono soltanto cacofoniche, quindi hanno anche così la capacità, oltre che l'ambizione, di andare oltre insomma al bruto, seppur insomma anche quello porta col brutismo insomma a discorsi molto molto interessanti. Ma per iniziare appunto da Anthology of Noise and Electronic, appunto il grande Justin Broderick. È una capacità impressionante quella di Justin Broderick di utilizzare il rumore e di utilizzare, ma anche perché no, proprio il rock in termini di qualche cosa di veramente estremo, ma nel senso insomma etimologico del termine, cioè di portarlo insomma fuori, e in questo senso insomma un pezzo come quello ascoltato dà anche il segno della capacità del riuscire insomma a utilizzare quello che è un atteggiamento che potremmo anche considerare meta noise, insomma, no? Nell'uso non brutale del rumore, seppure insomma c'erano momenti anche insomma di suoni insomma con defagranti anche ma anche appunto e soprattutto questa idea poi applicata dell'utilizzare il rumore sia appunto per evocare quasi momenti rock con questi riff metallici, anche proprio intesi come riff heavy metal, sia come momento drone che insomma copre buona parte dell'ultimissima parte del brano ascoltato, e anche momenti insomma legati proprio al glitch, quindi al suono insomma errato dell'utilizzo digitale del suono chitarristico. Ovviamente insomma un errore ricercato, come tutto il pezzo insomma era volutamente insomma stratificato tale da creare insomma anche sorte di così di percorsi che sembrerebbero portare da qualche parte, poi in realtà è tutto molto molto variegato, tanto insomma da lasciare tutto aperto, una specie di brano aperto, quello di Justin Brodkin, probabilmente anche come tutto il suo percorso musicale legato appunto al noise. Prima enunciavo insomma un po' di nomi. Beh, sicuramente un altro dei nomi tutelari di un modo così to cure di utilizzare il noise anche in termini proprio di rumori, rumore artistico, rumore sociale, rumore linguistico, quello di Monte Cazzazza, che insomma coniò così lo slogan micidiale per tanti aspetti insomma dell'industrial music for industrial people. Questo insomma era così lo slogan che fu preso da Tromin Gristle, che appunto crearono la Industrial Record, e poi insomma storia fatta, divenne poi Industrial Music, insomma conosciuta come tale, insieme qua in questo caso con Zev, quindi capacità di rendere il mondo delle percussioni un mondo assolutamente sperimentale e veramente sempre alla ricerca di un suono così sia urticante, ma più che altro come ricerca, come possibilità data da questa ricerca incessante, ecco, forse era più urticante l'immagine e la forma insomma sperimentale di Zev, che poi in realtà per tanti aspetti ha creato anche un suono potremmo dire insomma, per quanto possa essere paradossale, ma viveva anche di queste forme di creatività paradossale, Zev, che purtroppo insomma ci ha già lasciato qualche tempo fa, quasi forme percussive anche piuttosto insomma battute, ma con quella quasi ricerca astrattiva o comunque di una composizione che si faccia anche un altro, e in questo senso appunto anche poi le ricerche cabalistiche di Zev, tutto il linguaggio, insomma, elaborato nel corso degli anni su un suono che andava appunto perennemente alla ricerca di un altrove. E poi insieme a Kazatsa e a Zev, guastatori americani, post-punk e Fatrix, che tra l'altro insomma spesso collaboravano con gente come Survival Research Laboratories, quindi Mark Paulin e GX Jupiter Larsen, che poi formò anche gli Haters, che non sono quelli di internet, ma sono quelli quelli insomma ultra noise degli anni Ottanta. E con Survival Research Laboratories creavano delle performance veramente estreme, con macchine, robot autocostruite, che puntualmente insomma venivano incendiate, quindi anche con astanti insomma anche piuttosto preoccupati per la loro incolumità fisica. Poi in realtà insomma era una faccenda sì, in effetti anche abbastanza pericolosa, ma soprattutto insomma creativa, e che dava insomma da a pensare a quello che era già insomma negli anni Ottanta, non si può non ricordare buona parte della letteratura cyberpunk, fantascientifica cyberpunk, quello insomma della simbiosi anche per tanti aspetti dell'uomo macchina, oltre che ovviamente lo scontro, l'incontro, la dialettica e quant'altro insomma si possa appunto estrapolare da quei suoni, anche appunto da quelle letture e da quei immaginari, insomma sicuramente sia per le arti letterarie che per quelle musicali, che per quelle per performative. Fatrix, quindi Kazatsa e Zev, in questo trio insomma piuttosto così, piuttosto noise, ecco, potremmo dire. Orthodox Caveman, il pezzo di pezzo, tra l'altro pezzone, ecco, potremmo dire, di Sanno insieme a John Wiseman, non poteva insomma mancare in questa schiera di guastatori, di, come dire, personaggi abietti per quanto rumore insomma e quanta macelleria sonora mettano dentro nei loro pezzi, beh appunto non potevano mancare Sanò insieme a John Wiese. Quando si parla insomma di Sanò ovviamente si va a parlare di qualcosa che ha fatto insomma del metal, qualcosa di inaspettato. C'erano stati i Prodromi sicuramente, Burzum, M, e quanto insomma succedeva di terrificante in Norvegia negli anni 90, ma diciamo insomma che i Sanno ci hanno messo poi del loro, forse anche per portare a un'ulteriore esplorazione e forse anche come dire una forma più compiuta di composizione legata al metal, che diventa appunto metal drone, noise. Qua in questo caso con John Wiese che veniva fuori dalla California, quella California che già era stata solcata e che troveremo tra l'altro tra pochissimo, anche se poi è una California anche abbastanza vicina, visto che poi John Duncan è in Italia insomma da qualche anno, passando anche da Bologna. Non so se è ancora qua, comunque lo è stato insomma sicuramente per un bel po' di tempo e quindi Joe Wiese si prende quello che è la California Noise di Los Angeles Free Music Society, appunto dove tra l'altro bazzicava anche appunto John Duncan, come gli Airway, come Smegma, varie insomma diavolerie sonore che hanno aperto insomma di fatto hanno dato via libera a quello che potremmo considerare impro noise rock, fatemi passare insomma il così non neanche il neologismo ma è così l'arrampicata nominale che mi tocca fare rispetto a musica che veramente sono difficili da definire, e pensate insomma alla metà degli anni 70 quando uscirono insomma tra la metà insomma dei 70 e la fine erano veramente qualche cosa di non identificato in maniera più assoluta. Figliocci, nipoti insomma di quel suono, sicuramente John Wiese, che è stato ed è tuttora insomma uno dei portabandiera di quel noise che si fa anche qua, potrei dire insomma fatemela passare la cosa insomma meta noise, nel senso che è proprio un metodo compositivo legato al noise, all'utilizzo appunto del suono rumore, quello che fa John Wiese, tante collaborazioni, ma soprattutto un suono che tante volte, anzi forse più che un suono si potrebbe parlare proprio di una lingua noise che si fa concettuale, ma mai perdendo di vista poi anche quello che appunto prima consideravo in maniera amorevole, macelleria sonora, in questo caso appunto con i Sanò. Un piccolo omaggio dentro i noiser di questa sera, o di questo 451 dedicato appunto a loro, a Peter Rehberg che ci ha lasciato circa due anni fa nel giugno del 2021, pochi minuti ma che se vi dico insomma l'anno 1984, probabilmente insomma danno anche il segno insomma della genialità di Peter Rehberg, che tra l'altro è stato anche un gran discografico, nel senso che con l'amico ha creato veramente un di fatto una discoteca, ecco, che prima poteva essere soltanto immaginare, invece con un'etichetta come l'Amigo di fatto diventa fisica, tra i progetti più, più interessanti del noise, ma delle elettroniche sperimentali degli anni, tra la metà degli anni 90 fino agli anni, ai nostri giorni, insomma, negli ultimi anni. L'Amigo ha fatto uscire personaggi così, il primo nome che mi viene in mente è Fennez, ma potrei dire subito, immediatamente dopo, Pansonic, veramente è un catalogo eccezionale quello di dell'Amigo di Peter Rehberg, e quindi ci mancherà anche in questo senso. E poi come sperimentatore a sé, veramente ha fatto lavori egregi, Get Out, Get Down, anche lì tante collaborazioni, quasi quanto a Justin Broderick, e insomma la capacità di utilizzare il noise, anche se non si definiva un musicista, se musicista si può considerare un musicista noise, ma insomma di fatto ha tanto lavorato con rumore, e non a caso, insomma, tra l'altro poi la prossima ora metteremo William Bennett di White House, quindi il suo grande punto di riferimento, e quindi insomma il noise come se c'entra, e avremo anche modo di recuperare Monte Casazzi insieme a Fatrix e a Zev. In realtà abbiamo sentito poc'anzi 2 minuti ma di Zev in solo, ma nella seconda ora avremo modo di sentire anche appunto il trio infernale. E adesso Pita appunto per qualche minuto con appunto un lavoro sperimentale di pochi minuti da 1984, poi Masami Akita, più conosciuto come Merzbo, e insieme al già citato John Duncan, con il loro disco nero, il loro Black Album, le loro esplorazioni rumoriste. E poi se c'è qualche secondo ancora di tempo, ho Toto Gisù, che farà la collante insomma tra la prima e la seconda ora. Io per il momento comunque vi saluto e vi rimando appunto alla seconda ora, quindi per il prossimo mercoledì, per chi ci ascolta appunto in diretta. Appunto fate bravi col noise, che col noise è difficile, quindi molto molto interessante fare i bravi.